Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ricordo che era una domenica mattina, d'inizio primavera. Ricordo che a Roma c'era la maratona. Me ne accorsi quando mio marito fu costretto a lasciarmi a 200 metri dall'ingresso della metropolitana, anziché a due passi. Il centro, lungo il percorso di gara, era stato transennato. Senza guardarlo troppo, lo salutai con un vago «Sì, dai, ci sentiamo stasera. Appena mi assegnano un posto letto, ti chiamo». La mia meta era Milano, precisamente un ospedale dove ero ormai di casa da alcuni anni. Una familiarità che continuava a non piacermi, ma questa era stata la mia scelta. Sono Alessandra Serra, ho 42 anni e sono di Roma. Sono sposata e impiegata in un'azienda di servizi. Capita delle volte in cui si debba lottare tanto per ottenere delle cose. In quei casi succede che quando devi lottare così tanto e ci vuole del tempo perché quelle cose si realizzino, a un certo punto si perde di vista il motivo per cui stiamo lottando. Cioè, quasi si perde di vista l'obiettivo per cui stiamo lottando, perché siamo talmente presi in quella battaglia personale che a un certo punto ci domandiamo: aspetta un secondo, ma perché sto facendo tutta questa fatica? Quando è arrivata questa storia, la storia di Alessandra, è stata esattamente quella a cui ho pensato, anche se io probabilmente questa storia non potrò mai viverla, perché sono un uomo, sostanzialmente, e perché la maternità ha a che fare con l'essere donna, ovviamente. Però la cosa che veniva fuori da questo racconto era esattamente quel cuore lì, quello dello sforzo per combattere e ottenere qualcosa, fino ad arrivare al punto quasi da dimenticare quello per cui stai lottando, come se diventasse a un certo punto quasi secondario. L'importante è andare dritto, proseguire e in un modo o nell'altro arrivare là in fondo. 349-238-6666 oppure la mail voi siete qui @radio24.it. C'è anche un profilo Facebook, è Matteo Caccia Io Sono Qui, dove sono già arrivati alcuni messaggi, perché oggi si parla esattamente di quella cosa lì, non solo della lotta per diventare madre, anche se immagino che ce ne siano moltissime che sono di là dalla radio in questo momento che stanno ascoltando, ma si parla della lotta in assoluto per ottenere qualcosa. È il caso di Enrico che mi scrive: io ho assolutamente presente quella sensazione. La mia vita è iniziata con un sogno di bambino che fortunatamente si è realizzato. Ora che ci penso, tutto è stato maledettamente e stranamente facile e felice. Enrico, che ho cercato di capire che cosa faceva nella vita, e dal suo profilo Facebook c'è la foto di lui vestito da pilota sotto appoggiato a una gomma di un aeroplano, quindi credo che pari esattamente di quella roba lì, cioè di volare. Stefano, nel film La mia Africa, Karen dice: gli dèi, quando vogliono punirci, avverano i nostri desideri. Barbara, sì, mi ricordo quella fatica, è stata quando ho avuto mio figlio e sono dovuta passare attraverso mille sofferenze. Il cammino però alla fine è stato meraviglioso. E poi ancora Volfango, ma ti pare che va bene che ti puoi dare i nomi che vuoi su Facebook, però Volfango. È da quando ho aperto la mia attività, nel 2002, che sperimento questa sensazione. Tra alti e bassi, soddisfazioni e delusioni. È un portafoglio quasi sempre vuoto. Chissà. Chissà, Volfango, se è il 2002... Sì, magari si chiama Volfango, giustamente, dice Tiziano. Non credo, però. Ma non credo, perché il nome è Volfango von qualcosa. Vabbè, dicevo, è dal 2002 che lotta per la sua attività. Forse a un certo punto bisogna darsi un limite. Non sto parlando a te, Volfango, cioè non ti sto dicendo di mollare tutto, però che forse bisogna darsi un tempo entro il quale stare, no? E oltre il quale dire: boh, magari non sono adatto per quella roba lì. Ho qualche esempio in testa, però non lo faccio, perché altrimenti poi riferimenti. No, dai, 349-238-6666. Davide, non parliamone. Nell'87, per trovare la figurina di Gullit, ho fatto una fatica immane. Chi l'aveva doppia chiedeva troppo. Ma perché, si pagavano? No, davi in cambio un'altra figurina. Chi la trovava unica se la teneva. Poi un giorno apro uno degli ultimi pacchetti a disposizione e mi compaiono le treccine di Ruud Gullit. Anche se oggi non vogliamo parlare di calcio, parliamo solo di quella volta che avete lottato così tanto e così strenuamente che un pochettino quasi avete perso di vista il vostro obiettivo. 349-238-6666. È la storia di Alessandra. Prima di arrivare, però, alla storia di Alessandra. Vorrei parlare dei racconti che continuano ad arrivare, e vi ripeto la mail: voi siete qui, @radio24.it. Noi siamo veramente quasi sorpresi dal numero di racconti che arrivano tutti i giorni e siamo felici di leggerli. Io vi chiedo però di fare solo veramente un piccolo sforzo. So che non è facile immaginare una piccola storia della vostra vita che racconti qualcosa del momento che state vivendo voi adesso. Però fatelo, perché altrimenti dobbiamo veramente mettere da parte la metà dei racconti che arrivano. Anche se sono belli, anche se sono scritti bene, non è un concorso letterario. È veramente, lo stile è l'ultima cosa che ci interessa. Ci interessa solo che sia un piccolo episodio della vostra vita, che racconti qualcosa di voi, che sia una storia della vostra infanzia, che sia accaduta stamattina, sia una cosa che riguarda vostro figlio, vostro padre, che riguardi il vostro lavoro, che riguardi lo sport, che riguardi la amicizia, che riguardi la vacanza, un viaggio, qualsiasi cosa. Basta che sia una storia vera e che abbia un inizio, uno sviluppo e una fine. Una pagina è meglio, se è una pagina e mezza va bene, se è mezza anche. Già due è Bonini, già due forse è troppo. È Viola? 349-238-6666. Adesso però raccontiamo la storia di Alessandra. Era una domenica mattina, d'inizio primavera. A Roma c'era la maratona. E me ne accorsi solo quando mio marito fu costretto a lasciarmi a 200 metri dall'ingresso della metropolitana, anziché a due passi. Il centro era tutto transennato. Senza guardarlo l'ho salutato con un vago «Ciao, ci sentiamo stasera, quando mi assegnano un posto letto ti chiamo». La mia meta era il solito ospedale, un ospedale di Milano. Ormai ero di casa da alcuni anni. Una familiarità che non mi piaceva, ovviamente. Ma questa era stata la mia scelta. Se volevo avere una chance di diventare mamma, le strade erano due: un ospedale pubblico lombardo oppure un paio di cliniche della capitale, troppo costose per me. Quello che ricordo di quel giorno fu il contrasto stridente tra l'aria di festa che si respirava in città per via della maratona, per il sole, la primavera, e la pesantezza che mi portavo dentro, mentre con la mente percorrevo le tappe che avrebbero segnato le mie prossime ore. Un Eurostar con un posto finestrino per 5 ore. Arrivo in stazione e taxi fino a una delle zone più grigie e dimenticate della città e che il pomeriggio domenicale avrebbe reso ancora più insopportabile. Poi l'attesa nei corridoi dell'ospedale con la mia valigia, sempre troppo pesante. La speranza di avere una vicina di letto non troppo invadente. La cena, a base di brodo. L'attesa della mia dottoressa al mattino seguente, per fare la cartella clinica. Analisi di routine e la visita anestesiologica. E alla fine l'intervento, fissato per il martedì mattina, in anestesia totale. Un intervento di pura diagnosi, che nella migliore delle ipotesi avrebbe portato alla conclusione che ero stata solo sfortunata, se dopo 4 anni e 8 interventi medicalmente assistiti non era ancora successo niente. Io l'ipotesi peggiore non la prendevo neanche in esame in quel momento. Non avrei potuto fare di più. Diciamo che i momenti di down in questo percorso ce ne sono tantissimi, però abbiamo sempre vissuti a fasi alterne, cioè quando io andavo in una fase down eravo lui a ritirarmi sul morale e molte volte invece succedeva a lui e in quel momento invece ero io quella più forte, però è stato proprio qualcosa di molto naturale. Avevo passato gli ultimi 4 anni a fare la pendolare ogni 3 o 4 mesi su Milano. La prassi ormai era consolidata. Freccia del Sud, la sera a stazione Termini. Arrivo a Milano alle 7. Ospedale, ecografia di controllo e poi a casa con il treno delle 13. Dopo 2 giorni di nuovo lì con mio marito. Stavolta viaggio in macchina, hotel a 3 stelle, passeggiate alla ricerca di un buon ristorante e attesa. E attesa. E poi il crollo dopo l'insuccesso. 3 mesi di attesa e quindi una nuova scusa inventata al lavoro e si ripartiva. Quel giorno sul treno e poi in ospedale da sola pensai che forse stavo perdendo la testa, che forse era il momento di finirla e di andare avanti e smetterla di continuare di cercare tutti questi tentativi. Ricacciai pensieri negativi sotto il tappeto e mi addormentai. La mia missione andò bene. Potevo tornare dopo 3 mesi per un nuovo tentativo. Ed ecco arrivare il misto di felicità per la notizia e l'amarezza, quasi la delusione, per il mio corpo che si ostinava ad essere speranzoso. Telefonai a mio marito e gli dissi di non venire a Milano, di non prendere altri giorni di ferie al lavoro, che ci sarebbero serviti. Stavo bene e me la sarei cavata da sola con treno e valigia. E quel giorno ringraziai quella città, che non poteva sentirmi così grigia e senza un Bernini ad ogni angolo a consolare almeno i miei occhi. La ringraziai in cuor mio per la speranza che mi stava regalando. Durante quei soggiorni poi conoscevo altre persone, magari che venivano da altre parti d'Italia, e quindi in quel momento si creavano delle amicizie di persone che stavano facendo lo stesso percorso. Tutto un ricordo positivo, perché mi regalava la speranza ogni volta che andavo su, e quindi per me era una città amica. Sono passati un sacco di anni e tempo dopo, mentre mi lamentavo con un'amica per uno sforzo che stavo facendo senza vedere i risultati, lei mi ha ripreso e mi ha ricordato quei tempi là. Ragazza, mi ha detto, hai già dimenticato tutta la tenacia e la fatica che ti ha portato a diventare mamma? Aveva ragione lei, forse l'avevo dimenticato, perché a volte dimenticare, secondo me, fa anche bene. Anche perché, come dice il detto, la sofferenza passa, ma l'aver saputo soffrire non passa mai. Chi ha seguito il programma dell'anno scorso probabilmente si ricorderà di quel mio amico che si chiama Giovanni Denaro. Lui lavora in una biblioteca qui a Milano e qualche mese fa mi ha chiesto di sostituirlo per 4 settimane, il tempo necessario per andare a Valencia con Viola, sua moglie, e cercare di avere un figlio con l'aiuto della scienza. Io ho fatto la mia parte e loro hanno mantenuto la promessa. Ora Viola è incinta di 7 mesi. Io non lo so cosa voglia dire non riuscire ad avere figli quando invece ne vuoi disperatamente, ma conoscere loro due per me è stato molto importante. E così, prima che la nascita li tuffi in una nuova vita, una vita di cui non potrà far parte, pochi giorni fa li ho invitati a cena. Arrivati a casa mia, Giovanni e Viola si accorgono di essere a mani vuote, cosa che a me non interessa, solo che Giovanni non la può reggere, per cui mi chiede dov'è il supermercato più vicino. E scende, va a comprare una bottiglia di passito, che credo che per lui, che è siciliano, significhi molto di più di quello che è veramente. E quindi siamo rimasti da soli io e Viola. Restare da solo con Viola è stata un'occasione per parlare di temi che con suo marito presente probabilmente non avremmo potuto affrontare. Ma soprattutto è stato il modo per accorgermi di quanto lei sia tremendamente grossa. Nel senso che per un uomo che non è sposato è raro vedere donne incinta da molto vicino. E lei ha una pancia che mette veramente impressione. Ci sarà anche abituata lei, però io no. E quindi mi è venuto da dirglielo, quasi come se scoprissi un ragno sui capelli. Mazza, Viola, ma è una pancia è gigantesca. E lei si è messa a ridere, perché forse ero il primo che glielo diceva, ma mi ha detto che lei sapeva che chiunque la incontrava lo pensava. E mi ha confermato che sì, era vero, era enorme. Per essere di 7 mesi ho una pancia molto grossa e un gran mal di schiena anche, mi ha detto. Ma con la fatica che abbiamo fatto per avere un figlio, per arrivare fino a qui, ogni fastidio è quasi un piacere. Io ho pensato che anzi, vedere il proprio corpo cambiare in maniera così evidente e percepire gli ormoni che si sballano, sentire la nausea, le debolezze, rendersi conto dei chili che aumentano, delle forme che si sformano, degli appetiti insensati, delle voglie immotivate, è tutta una conferma del fatto che lei incinta lo era davvero. E probabilmente vale più di 1000 esami, di quelli che hanno responso sulla carta. E quindi Viola si lascia andare e ricorda tutti i viaggi, tutti i fallimenti, il rapporto con Giovanni che era diventato difficile, perché ognuno dava un po' la colpa all'altro, anche senza volerlo, anche senza dirselo. Ed è tutta una teoria di attese, di speranze, di fini, di inizi nuovi, di delusioni, di ripartenze. Una fatica che puoi affrontare solo se davvero ci credi. E forse solo se sei davvero in due. Che ti fa lasciare tutto in secondo piano. Perfino perdere il lavoro sembra uno scenario poco grave, se è paragonato all'ennesima frustrazione. Ed è per questo che ogni singolo tassello di questo puzzle è prezioso. E che alla fine, perfino io, nel mio piccolo, per quelle 4 settimane, sono stato importante per loro. E questo mi fa anche sentire bene, mi fa pensare che ci sono cose per cui vale la pena di rischiare e darsi da fare. Cose che ti fanno sentire il piacere di fare quello sforzo. Sì, forse è come scalare una montagna. Non sai che sensazione avrai quando avrai raggiunto la cima, ma intuisci che deve essere splendido. E questo non ti fa sentire più la fatica che stai facendo. è solo sudore e fiato corto. Un prezzo che vale la pena di pagare. Perché il gioco vale la candela, perché qualcosa dentro di te ti spinge a non mollare, mai. Anche se la tentazione di mollare è forte. Non mollare mai. E mentre Giovanni arriva, questa bottiglia di passito, io sono lì e ho appoggiato la mia mano sulla pancia di Viola. E sento qualcosa che si muove. E non la sposto. E potrei stare così per ore. Solo che il sugo sta bruciando e perfino loro sono un po' imbarazzati. E allora mi accorgo che forse è il caso di andare in cucina. You wanna sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held my hand. E poi arriva questo momento qua, che è il momento in cui, dopo aver letto giorni fa una storia e dopo averla raccontata in diretta, arriva il momento in cui sento al telefono la persona che è l'autrice di questa storia, ma soprattutto che è la protagonista di questa storia. E alla fine, secondo me, è anche il momento più bello di questo programma. Pronto, Alessandra? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Grazie per il tuo racconto e per essere qui soprattutto. Senti, partiamo da lì ovviamente, perché questo è quello che io so e le persone che stanno ascoltando sanno di te. Alla fine è un bimbo o una bimba? Alla fine è un bimbo e poi dopo anche una bimba. Ah. Alla fine abbiamo fatto, ho avuto due bambini, insomma, prima un maschietto. E poi dopo abbiamo continuato ed è arrivata anche il secondo, cioè la seconda. Ma la seconda è arrivata a quel punto sempre con questa con questo meccanismo? Sì. Senti, rispetto a quando è accaduto questa la cosa che racconti nella pagina che mi hai mandato, dopo quanto tempo sei rimasta incinta? Dopo 2 anni, perché il racconto si riferiva al 2003 e altri 2 anni sono passati da quel momento, quindi diciamo in tutto circa 6 anni. E quindi, quindi 6 anni ci hai messo? Sì. E quanti anni avevi quando hai cominciato? E poi vabbè, basta fare un'addizione. 30 anni quando ho cominciato e 36 quando sono diventata mamma. Cioè. Beh, e senti, sei mai capito qual era il problema, se c'era un problema o... Beh sì, un problema c'era, un problema fisiologico c'era, insomma, era... Cioè non era solo una questione psicologica, no, ovviamente. No. Senti, invece raccontami di questi viaggi avanti e indietro, Milano-Roma. Tu praticamente Milano la ricordi solo ed esclusivamente per quella cosa lì? Cioè quando pensi a questa città, pensi a quella cosa? No, penso a quella cosa, però diciamo che nel frattempo ho fatto anche molte conoscenze, ho stabilito anche delle belle amicizie anche a Milano, perché conoscevo delle persone, magari delle ragazze che facevano la stessa cosa che stavo facendo io, con le quali poi ci sentivamo e rimanevamo in contatto. Qualche volta mi hanno anche ospitato in uno di questi momenti. A casa loro? Sì, okay. Dopo anni alla fine diventi un po' di casa. Certo. Senti, c'è mai stato un momento in cui hai detto ma chi me l'ha fatto fare? Tipo quando ti hanno fatto a pezzi la casa, oppure quando... Cioè è sempre solo amore puro per questi bambini o c'è un momento in cui dici... No. Vabbè, c'è sempre il momento perché ti... Ogni giorno, sì, c'è un motivo per cui dici mamma mia, stavo tanto bene prima. Chi li porta a scuola i bambini? Scuola li porta il pulmino, io li porto al pulmino, li porto la mattina e poi li vado a riprendere al pulmino. Al pulmino, sì. Tuo marito in tutto questo? In tutto questo percorso, vuol dire? No, nel percorso da casa al pulmino. Noi facciamo i turni, una volta li vado a portare io, una volta li vado a portare lui, insomma facciamo i turni perché lui abbiamo questa possibilità, quindi la mattina di solito li vado io a portare al pulmino e il pomeriggio vado lui a riprenderli perché lavora la mattina molto presto, quindi quando torna a casa sono le 4 del pomeriggio va a prenderli lui. Senti, invece io, viene fuori chiaramente, ed è alla fine guarda, è per questo che io chiedo proprio semplicemente un piccolo episodio, perché da quell'episodio si capisce... qualcosa di abbastanza approfondito della persona che la scrive. Si è capito e si capisce della fatica, della paura, l'ho capito pure io che sono un uomo, figurati, se non l'hanno capito gli altri, che attraverso cui sei passata in questi anni per avere un figlio. A quel punto, quanto coraggio, quanta forza ci vuole per farne un altro? Se fai il secondo, vuoi dire? Sì. Ah, ce ne vuole molto di meno, perché ormai già sei mamma, cioè io ero già mamma quando ho deciso di fare. Ah, perché ti sei tolta un peso, tipo buono, il primo è andato, adesso vediamo come viene questo. Ma ormai ero felice, cioè ormai ero già mamma, quindi quella era la cosa principale. La seconda sarebbe stata proprio un miracolo, una grazia, ecco. Quindi... Senti, e poi l'ultimo, e poi ti lascio andare davvero, Alessandra. È come uno si immagina che tu eri da quando eri bambina, che volevi dei bambini, oppure una roba che è venuta dopo? No, dopo, è venuto dopo, non mi immaginavo proprio mamma, è dopo, quando intorno ai 30 anni, insomma. Va bene, dopo. Posso chiederti che lavoro fai? Sono in laureata in matematica e lavoro per un'agenzia di statistica. Ok, beh, che fa analisi... Statistiche. Quindi eri veramente schiacciata sull'argomento, sì, cioè non potevi uscirne, conoscevi tutte le possibilità che c'erano e che non c'erano. Alessandra, senti, ti faccio in bocca al lupo per tutto e grazie ancora. Grazie a voi. Ciao e buona giornata. Ciao anche voi. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Nella foto di Alessandra, Alessandra non c'è. È un po' uno strappo alla regola questo, perché abbiamo chiesto dei ritratti delle persone che mandano il racconto. Però c'è una scenografia strana. Sembra una, cioè è sicuramente una cerimonia e credo sia una cerimonia di matrimonio, o meglio gli attimi che precedono l'inizio di una cerimonia di nozze. C'è un tappeto bianco che va verso un piccolo altarino all'aperto. Potrebbe essere un matrimonio laico o civile. No, potrebbe anche essere religioso, perché no? Mica solo in chiesa si fanno. Però non c'è nessun prete. C'è invece un bambino con una camicia bianca, dei pantaloni color khaki di spalle, che cammina su questa passerella bianca. 349-238-6666. Ci sono diversi messaggi di supporto, di incoraggiamento nei confronti di Alessandra. Anche noi, mi scrive Romualdo. Sarà vero il nome, no? Romualdo. Fanno sempre ridere i nomi. So che è stupido. È veramente stupido ridere dei nomi. Però anche noi abbiamo fatto la stessa esperienza, fallita fino alla quarta volta, ma non ci siamo arresi. Abbiamo adottato altri 5 anni di battaglie, ma alla fine è arrivato un bambino che ci stava aspettando dall'altra parte del mondo. Romualdo, da Cavriago, Reggio Emilia. La continuità nel perseguire l'obiettivo lo rende lo stesso una parte del problema, non il problema. Alessandro, questa non l'ho capita proprio. È un po' psicologia, un po' spiccia. Ugo da Roma, ma se la natura non vuole farci procreare, perché ostinarsi? Come se l'acido biologico fosse più importante di quello culturale. Questo sembra un po' il darwinismo che si compra la coin, questo, eh? Avere lottato, passato l'estate 2005 a studiare la notte e lavorare il giorno, vincere un dottorato di ricerca quando parti svantaggiato e mollarlo dopo 2 mesi. Ancora mi chiedo se ci credevo o se l'ho fatto per dimostrare a me che ero capace di vincere qualcosa e essere a livello dei miei amici. Roberto, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure voi siete qui, @radio24.it per le vostre mail. C'è un libro, che è un libro non conosciutissimo, di John Fante. Uno quando pensa a John Fante pensa subito a Chiedete alla polvere, però c'è un libro che si chiama Full of Life, che è esattamente il racconto dei 9 mesi, quei 9 mesi lì, che precedono la nascita del figlio di John Fante, che lui passa insieme a sua moglie, e racconta delle volte anche in maniera abbastanza, insomma, alla John Fante, quei 9 mesi di attesa. E l'inizio del libro fa così. Era una casa grande, perché eravamo gente con grandiosi progetti. Il primo era già lì, una sporgenza all'altezza del suo punto vita, una cosa dei movimenti sinuosi, striscianti e contorti, come un groviglio di serpi. Nelle tranquille ore prima di mezzanotte io appoggiavo il mio orecchio su quella zona e sentivo un gocciolio, come da una sorgente, dei gorgoglii, dei risucchi, degli sciabordii. E dicevo, si comporta proprio come il maschio della specie, eh? Non necessariamente, mi diceva lei. Dai, nessuna femmina scaccia così tanto. Ma non discuteva la mia Joyce. Quella cosa era dentro di lei. E lei era remota, sdegnosa e beata. Eppure a me non importava ancora nulla di quella sporgenza. È poco estetica, le dicevo, e le suggerivo di indossare qualcosa per nasconderla. E ucciderlo, mi diceva lei? Sì, ci sono delle cose adatte. Le ho viste. Mi guardava con freddezza, Io ero l'ignorante, il balordo che passa nella notte. Non più una persona. Diventavo semplicemente malefico. Assurdo. Sono gli stessi miei pensieri, le stesse mie paure, le stesse mie speranze, con la differenza che io andavo a Bruxelles a farlo. Firmato Barbara. 349-238-6666. Mi è arrivato un messaggio, cioè, non è che se una storia è vera me la dovete per forza raccontare, no? Abbiamo detto che devono essere vere per poter essere raccontate in questo programma, però... Ciao Matteo, questa è una storia vera. Oggi sono stato in Svizzera per vendere il seme, ma prima di farlo ci ho rinunciato. Chiamami se vuoi. Ma no, ma non ti chiamo! Ma perché dovrei? Cioè, anche se non capisco perché il motivo è rinunciato... No, facciamo che non lo voglio sapere. 349-238-6666. È arrivata questa mail oggi di Francesca, prima del programma, a proposito del lottare senza tregua per ottenere qualcosa, e parla della lotta per laurearsi in una... Dov'è? Mi laureo 11 anni fa, mi laureo in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico. Ci credevo da matti, eccetera eccetera eccetera. Aspetta, andiamo qua. Eccola qua. Ero stata folgorata sulla via di Damasco, per cui archeologia sì, ma archeologia sudamericana. E ci puoi scommettere, al tempo scegliere un indirizzo simile sembrava da folli o da esaltati. Guarda, anche adesso direi, anzi forse adesso di più. Ci ho messo tutto quello che potevo. Ho studiato qui dove l'archeologia sudamericana non esisteva nemmeno come corso. Ho trovato assillo e assillato i docenti, eccetera, eccetera. Alla fine ho tagliato il traguardo, laurea con 110 lode. Tesi di ricerca completamente autogestita. Trionfo su tutti. Vabbè, ma andiamo allo scambio finale che è la cosa più divertente. Il mio relatore, l'uomo che avrebbe dovuto presentarmi alla commissione e spianarmi la strada sulla discussione tra tesi. Ci dica, signorina, lei ha scelto come argomento, vediamo un po', la ricostruzione della regione Nazca attraverso i manufatti cerimoniali. Dunque, che cosa ci dice delle piste d'atterraggio degli extraterrestri in quell'area? Voi siete qui, @radio24.it, per le vostre storie. Questo è un programma in cui si racconta una storia al giorno, una storia vostra, di cui voi siete i protagonisti, che noi prendiamo, leggiamo e sistemiamo. Una storia che sia vera, una storia che racconti di quello che volete. Basta che sia un episodio della vostra vita. La storia di oggi era la storia di Alessandra e parlava di lottare per ottenere qualcosa, in particolar modo per diventare mamma. La storia di Mani invece è la storia di Elena e parla di una lunga attesa. Mi guardo allo specchio, lo faccio ogni 2 minuti, scrutando ogni angolo del mio corpo come se non l'avessi mai visto. Cerco di pensare ad una cosa carina da dire, una cosa che non mi uscirà mai. Dopo 2 ore e mezzo in cui sto aspettando, mi sento distrutto anche fisicamente. Mi sdraio sul letto e accendo la TV. Sento che il mio corpo è talmente assuefatto all'attesa che ora si sta rilassando. Guardo l'orologio, controllo la mail, mi sistemo il rossetto. Sospiro, mi chiedo che reazione avrà lui quando mi vedrà. E in quel momento lui bussa alla porta.